Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La puntata di oggi potrebbe sembrare una puntata prettamente maschile per l'argomento un po' pruriginoso che tratteremo, però bisogna anche tener conto che questa è una puntata che parla di riscatto, di volontà e di successo, e per le donne è una puntata che vi servirà anche per capire come siamo fatti noi uomini. Spesso siamo fatti male, almeno questo voi donne state per pensare. Stiamo parlando di un uomo e di un giornale storico. Il giornale è nato nel 1953 e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento e di costume in tutto il mondo. Ma noi racconteremo la storia del suo fondatore, che è l'uomo più invidiato d'America e forse del mondo. Stiamo parlando di Hugh Hefner. T'ha chiuso la porta in faccia. Oh, t'ha chiuso la porta in faccia. È stata gentile. Sì, gentile, gentile perché non t'ha derubato. Ma dai... Era bella almeno? Aveva dei begli occhi. Sì, dei begli occhi, ma intorno agli occhi com'era? Beh, hai guardato solo gli occhi? Ah no, ho guardato anche le mani. Sì, ho guardato le mani e gli occhi, per piacere! Era meglio se guardavi le mani di quella bestia che t'ha ridotto così! Guarda, guarda qua. Lui guarda le mani e gli occhi delle donne. Come comprare Playboy e leggere l'articolo di fondo. Per piacere. E questo è uno dei tanti film in cui viene citata la rivista Playboy o il suo fondatore, Hugh Hefner. Ci sono film in cui lui appare come attore e interpreta se stesso e il suo mito. Playboy e lui sono diventati così famosi da diventare parte integrante della cultura degli Stati Uniti. Anche se, come vedremo, lui ha avuto il suo da fare per farsi accettare da un certo tipo di pubblico, però dobbiamo andare con ordine. Cominciamo dal raccontare una tranquilla famiglia americana di Chicago, dove nel 1927 nasce lui, Hugh Marston Hefner. È un ragazzino sveglio, con la passione del disegno, della scrittura, si occupa del giornalino scolastico, quando frequenta il college e dirige il mensile comincia a dare i primi segni del suo genio, introducendo la rubrica La ragazza del mese. Ovviamente per il momento le ragazze sono rigorosamente vestite, ma per spogliarle c'è sempre tempo, l'importante è cominciare. Hitler and his generals feverishly drafted their plans for the conquest of Britain. Every detail must be anticipated. A slip now might wreck the whole timetable of world conquest. 6 weeks of final preparation went into those plans. 6 weeks to determine the history of 1,000 years. Scoppia la seconda guerra mondiale. Hefner serve il suo paese lavorando dietro una scrivania perché è molto bravo a disegnare e così lavora come vignettista per i giornali di propaganda. È una cosa molto più importante di quello che può sembrare. Le truppe intanto si consolano durante i momenti di tranquillità sfogliando giornali come Esquire, che pubblicano le fotografie, o meglio i disegni delle pin-up, le ragazze da appendere, che in qualche modo risvegliano gli uomini da un torpore causato dai combattimenti e dal continuo contatto con le atrocità della guerra. Finita la guerra, le cose cambiano drasticamente. Negli anni 50 l'Esquire, che leggevo quando ero ragazzino, era cambiato notevolmente. Avevano tolto le pin-up, le vignette, tutto quello che era osé era sparito. Esquire si era trasformato in una rivista di interesse generale e la società era diventata più conservatrice. Io sembravo condannato a una vita senza emozioni. Hugh Hefner si sposa a soli 22 anni nel 49 e fa 2 figli. E la sua è la tipica famiglia americana, baluardo del benessere, del consumismo, incastrata in un mondo in cui i valori principali sono quelli della famiglia, della religione, del conformismo. Le donne a casa a fare da casalinghe, gli uomini a lavorare, a divertirsi al bowling o in altri castissimi divertimenti. Il sesso in quell'America è cancellato e represso. Hugh Hefner, a questo modo di vedere le cose, non ci sta. Senza ombra di dubbio, ero molto stressato. e pensavo che dovesse esserci qualcosa di meglio per me e per molti altri come me. Nel 1953 Hefner, che ha già lavorato per diversi giornali senza avere ancora trovato la sua strada, decide di raccogliere un piccolo capitale, $8,000, a cui contribuisce anche la stessa madre, e prepara il primo numero di una nuova rivista dedicata a un pubblico maschile, con articoli che trattano di argomenti molto attuali senza essere ingabbiati nell'immagine della classica famiglia felice americana. Allora, lui prepara i primi articoli di questa nuova rivista scrivendo sulla macchina da scrivere direttamente sul tavolo della cucina del suo modesto appartamento, che ha dato in garanzia alla banca per ottenere parte del prestito. Questo è veramente un colpo d'ala. Se la rivista non funzionasse, Hefner perderebbe tutti i suoi soldi e anche la casa. Questo vuol dire avere le palle quadrate. Come simbolo della rivista viene scelto un coniglio che scherzosamente negli Stati Uniti viene definito il Playboy degli animali. Come conseguenza arriva anche il titolo della rivista, Playboy. L'idea alla base di Playboy era quella di creare una rivista nuova, sofisticata, per giovani uomini, perché Esquire si rivolgeva ad un pubblico più maturo. Si parla di musica, cibo, piccoli racconti, vignette, ma la vera novità di questa rivista è che tra un articolo e l'altro campeggiano delle foto di bellissime ragazze, a volte in costume, a volte in lingerie, a volte nude. Ecco l'idea innovativa di Hefner: accostare donne bellissime a contenuti editoriali di alto livello per fornire al lettore un po' di cultura e un po' di intrattenimento fuori dai normali schemi della famiglia americana. E poi c'è il paginone centrale, caratterizzato da una grande foto di una bellissima ragazza. Per il primo numero Hefner fa una scelta che si rivela vincente: acquista i diritti di una celebre foto di Marilyn Monroe, astro nascente nella cinematografia e che proprio in quegli anni sta imponendosi come sex symbol del cinema americano. È chiamata La dolcezza del mese e non è che la prima di una lunga serie di Playmate. Ma Hefner, che non sa ancora come reagirà il pubblico, non mettere una data nella sua rivista, perché non sa ancora se ci sarà mai un numero 2, una seconda uscita. Ma per la sua fortuna e quella di tanti giovani, le sue paure sono infondate. Siamo nel dicembre 1953, le edicole degli Stati Uniti vengono sconvolte dall'uscita di una nuova rivista, si chiama Playboy. Il suo fondatore Hugh Hefner ha investito tutto in un progetto in cui crede e il grado di rischio è enorme, c'è una casa impegnata e tutti i soldi che aveva, debiti. L'America puritana, tutta concentrata sulla tradizione e sulla famiglia, è pronta per questo terremoto. Hefner ha stampato il primo numero della rivista, attende come un verdetto fondamentale i risultati di vendita. Il successo è arrivato quasi subito. Io stesso ho capito di aver colpito nel segno sin dai primi 2 o 3 numeri, perché mese per mese mi accorgevo di avere i soldi necessari per stampare il numero successivo. 53.000 copie stampate, 53.000 copie vendute. Il primo numero ha fatto saltare il banco e Hefner ogni mese investe tutto nel numero successivo. E come spesso accade in un progetto che parte dal nulla, con il consenso del pubblico sale la voglia di migliorarsi, di osare di più per raggiungere livelli sempre più alti. Hugh Hefner ragiona proprio così e, a differenza di quello che starete pensando voi un po' maliziosamente, non si concentra sui nudi femminili, non aumenta la visibilità di quella o questa parte intima, non sconfina in quello che avrebbe potuto essere etichettato come pornografico. Lui lavora sui contenuti editoriali, chiamando a scrivere famosi giornalisti e scrittori. All'inizio, quando ancora i soldi erano pochi, riempivo le pagine con ristampe di scrittori famosi che conoscevo, perché erano quelli che avevo in casa: Conan Doyle, Steinbeck, Bradbury. Poi ho fatto in modo che quegli stessi autori scrivessero delle storie nuove apposta per me, e fu quello a fare la differenza. I grandi successi arrivano quando vai a colmare un vuoto, quando fai una cosa che gli altri non stavano facendo. Così la rivista si impone sul mercato non per il contenuto del paginone centrale, ma perché è una rivista che descrive Un uomo colto, amante del buon gusto, della buona cucina, dello sport, della musica, anche, ma non esclusivamente, delle belle donne. E quindi Hefner in realtà crea uno stile di vita ricco di classe, signorilità, e di cui Playboy diventa il manuale delle istruzioni. Fa una cosa che non era mai stata fatta prima, perché in quegli anni ci sono anche altre riviste o giornaletti con fotografie di donne nude, sono sempre state, ma Playboy è un'altra cosa. La stessa Playmate viene mostrata magari anche ben vestita, immersa nella sua vita quotidiana, e il testo non è mai volgare, la classe di Playboy si vede. Hefner comincia a trarne i frutti e Playboy finisce anche nei salotti buoni. Good evening, I'm Mike Wallace. The show is Night Beat. Buonasera, sono Mike Wallace e questo è Night Beat. Abbiamo qui stasera il trentenne Hugh Hefner, ideatore della rivista più sexy del mondo, Playboy. Buonasera. Signor Hefner, cito una sua affermazione rilasciata in un'intervista. Il sesso sarà sempre un ingrediente fondamentale per la rivista. Non crede che invece questi contenuti possano definirsi pornografia? No, non credo proprio. Il sesso sarà sempre una parte importante del giornale, perché il sesso è l'unica cosa che interessa veramente agli uomini. Questa è un'intervista rilasciata proprio nei primi anni a una televisione americana sana, puritana. Insomma, gli americani da questo punto di vista sono sempre stati veramente un disastro, ci hanno messo anni e anni per fare piccolissimi passi dal punto di vista dell'apertura mentale, e ancora sono pericolosamente indietro, con l'aggravante che vogliono anche esportare le loro debolezze. Comunque, questa è la prima di tante battaglie che si trasformeranno in guerre, quelle che Hugh Hefner deve affrontare per continuare a stampare la sua rivista. Petizioni di gruppi di famiglie americane che lottano per la salvaguardia della moralità, insomma il teatrino della ipocrisia Yankee alza il suo sipario, si scaglia contro un giornale che moltiplica il numero di copie vendute, e come sempre questo tipo di pubblicità negativa diventa pubblicità positiva. Intanto nei primi anni 60 in America ci sono problemi razziali molto sentiti, sono gli anni di Malcolm X, Luther King, di Kennedy. Playboy si schiera apertamente a favore dell'uguaglianza tra bianchi e neri, come se di problemi non ce ne fossero già abbastanza. Non c'è mai stata nessuna intolleranza razziale nella mia famiglia. Per essere razzista ti devono educare, non è una cosa che nasce naturalmente. Per questo ritenevo tutte queste idee di diversità semplicemente ridicole. Questa è solo una delle battaglie che Hugh Hefner ha combattuto contro gli stereotipi spesso dettati dall'ignoranza e dall'ipocrisia per fare accettare Playboy, la rivista che ormai è diventata una vera e propria filosofia di vita. Il giornale ogni mese diventa sempre più importante e all'orizzonte si affacciano nuovi mezzi di comunicazione in grado di far lievitare a livello esponenziale la fama di Playboy e delle sue ragazze. Il primo è la televisione. Rimanete con noi perché vi racconteremo tutto senza, purtroppo, farvi vedere neanche un'immagine. Questo è l'unico limite della radio e oggi più che mai è un vero peccato. Il falco e il gabbiano. Stiamo ripercorrendo la mitica vita e la carriera professionale di Hugh Hefner, il fondatore di una delle riviste più famose al mondo, Playboy. Una sfida iniziata con il vero grande colpo d'ala. $8,000 investiti, impegnandosi tutto, casa compresa, e un risultato destinato a cambiare il mondo della editoria. E naturalmente tutto questo passa attraverso le critiche, i problemi giudiziari da parte di quell'America bigotta e chiusa intellettualmente che non può capire, anzi che si scandalizza, e tutto questo naturalmente aumenta la fama di Hugh Hefner e del suo giornale, che peraltro ha fatto della cultura il suo principale biglietto da visita, ospitando interviste a personaggi famosi, racconti di illustri scrittori che hanno firmato per la rivista, il tutto accompagnato da fotografie di bellissime ragazze. Nell'ottobre del 59 c'è il salto di qualità. Playboy non è più solo carta stampata, fa il suo esordio in televisione. Playboy's Penthouse era sicuramente qualcosa di nuovo, di mai visto. Tutto era improvvisato. Si aveva l'impressione di salire con un ascensore all'interno del mio attico. Qui c'erano ospiti, c'era musica dal vivo e si aveva l'impressione di partecipare ad una festa. Sammy Davis Jr., Tony Bennett, Count Basie, Tony Curtis sono solo alcuni degli illustri ospiti di una trasmissione divertente, uno dei primi talk show in cui le interviste si alternano a scenette con bellissime ragazze vestite, e nella conduzione di Hefner traspare anche e un forte senso di integrazione. Questo è importante perché non c'è differenza tra bianchi e neri, tutto si svolge all'insegna del divertimento e dell'allegria senza tensioni sociali, ed è un tipo di trasmissione che verrà copiato da tutti per decenni. Pensate anche alle trasmissioni di Arbore con i salotti, con gli ospiti, insomma ognuno fa il suo. E pochi mesi dopo l'inizio della trasmissione Hefner decide di estendere queste sue serate anche al grande pubblico, aprendo il primo di una catena di locali esclusivi, il Playboy Club. In questo locale le cameriere sono vestite con un micro vestito da coniglio, simbolo della rivista. Nascono così le conigliette di Playboy, un marchio destinato a diventare nell'immaginario maschile sinonimo di una bellezza provocante ma mai volgare, una ragazza amante del divertimento e del sesso senza cadere nel pornografico. Le ragazze di Playboy sono le ragazze della porta accanto, insomma, o quasi. Diciamo che bisogna essere fortunati a abitare nella porta giusta. Le ragazze della porta accanto diventano sex symbol internazionali sulle pagine di Playboy. Bibliotecarie, casalinghe, ma anche segretarie di avvocati diventano protagoniste della loro sessualità e prendono coscienza della loro libertà e dei loro diritti civili. Passano gli anni, Playboy diventa un vero e proprio impero finanziario. La rivista è stampata in milioni di copie in tutto il mondo. Anche in tutta Europa aprono i Playboy Club, diventano una catena di locali esclusivi a cui si accede solo se in possesso di una chiave. E nella Milano da bere degli anni 80, quella delle modelle, quella del boom economico di tutti i tipi, una Milano che per mia fortuna insomma arriva nel momento in cui io divento famoso, e aveva insomma, c'era sempre quest'aria, no? Ti davano, c'era il Vogue, un locale in cui appunto ti davano le chiavi per entrare, c'era il Caffè Roma, c'erano insomma c'era quest'area di sessualità e di sensualità che permeava tutte le serate, insomma, che finivano quasi sempre in maniera molto divertente. Ma intanto noi siamo ancora negli anni 70, Hefner ha iniziato a avvicinarsi alla California, al mondo dorato di Hollywood. Le star del cinema vengono intervistate sul magazine e scrittori come Stephen King scrivono racconti da pubblicare. Hefner ormai è così legato allo Star System da lasciare Chicago per trasferirsi in una famosissima casa sulla costa ovest degli Stati Uniti. Sono circa 2 ettari, vicinissimo a Sunset Hills. Se ti guardi intorno sembra di essere in Europa o addirittura su un altro pianeta. Di tutto il giardino la parte che preferisco è la grotta, con la cascata all'esterno. Beh, dunque, io sono una persona che non è mai stata invidiosa, anche perché insomma la vita mi è andata più che bene, però vedere la Playboy Mansion mi ha messo veramente a dura prova. Nelle immagini, oltre alla bellezza di questo antico casale ristrutturato con 25 stanze, campi da tennis, ci sono saune, c'è la famosa piscina che si infila in una grotta, c'è lo zoo. E naturalmente ci sono loro, le conigliette, che si aggirano per la tenuta rigorosamente in bikini e tacchi alti come se facessero parte dell'arredamento. Adesso le femministe urleranno allo scandalo, ma a difesa di Hefner si può dire che in tutta la sua carriera lui ha sempre dichiarato di aver rispettato le donne tra le pagine della sua rivista. Non ha mai considerato la donna come un semplice oggetto sessuale, ma come una sottile combinazione di intelligenza, bellezza, carattere e un po' di follia, e noi gli crediamo, dai. Il falco. e il Gabbiano. Penthouse, Hustler, negli anni sono molte le riviste che nascono sulla scia di Playboy, c'era anche Playman in Italia. Ognuna di queste si differenzia dalle altre per le pose più o meno audaci delle modelle, per la diversa quantità di contenuti editoriali, però Playboy ha sempre fatto la differenza, perché la lista dei personaggi intervistati nel corso degli anni è di tutto rispetto. Insomma, quando finalmente Playboy mi ha intervistato, insomma, ho capito che era un bel imprimatur. Presidenti, cantanti, attori, personalità di ogni genere hanno concesso interviste e spesso rivelato scoop tra le pagine di Playboy. John Lennon, Jimmy Carter, Arafat, ma anche Sartre, Orson Welles, Steve Jobs. Insomma, Playboy è considerato un giornale che deve essere sfogliato almeno 3 volte. Le prime 2 per guardare le figure, la terza per leggere gli articoli e poi magari anche la quarta e la quinta per dare ancora un'occhiata alle figure. Oh, they were living the life. Si è venuto a sapere che fin dagli anni 70 le ville di Jack Nicholson, James Caan, Warren Beatty e Kirk Douglas erano collegate alla Playboy Mansion attraverso dei tunnel sotterranei che permettevano agli attori di intrufolarsi nella villa di Hefner senza essere controllati dai giornalisti. Non è uno scherzo. John, this is not a joke. Ah, però, e questa è una notizia che è venuta alla luce recentemente, perché la Playboy Mansion non era solo un luogo di grandi feste mondane documentate dalla stampa, e alcuni attori avevano stabilito di collegare la propria casa sulle colline di Beverly Hills a quella di Hugh Hefner con il solo scopo di poter trascorrere qualche serata in relax con le onnipresenti conigliette senza che nessuno, soprattutto la stampa, lo venisse a sapere. Forse anche qualche noto uomo politico italiano, se avesse usato di più dei tunnel, forse insomma avrebbe evitato qualche guaio. Ti concedo 2 ore per raccogliere le tue cose e lasciare la Playboy Mansion. Con tutto il mio amore, F mi caccia da casa. E per quale motivo? Questa è casa mia! Questa è la mia famiglia! Mi fa male dirlo, Shelley, ma forse è per via della tua età. Ma io ho 27 anni! Però sei una coniglietta, è come averne 59 nella vita reale. Ma ho compiuto 27 anni solo ieri sera! Quindi è come se ne avessi ancora 26 o 58! Devo parlare con F, forse mi farà restare. È andato a Las Vegas, Shelley. Non ci sa fare molto con gli addii. Quei molti uomini, insomma, sono quasi scattati sull'attenti su questa cosa, insomma, non certo femminista, però ci può sorridere, non vogliatecene donne. Hugh Hefner ha vissuto la sua vita circondato dalle sue conigliette. Negli anni 70, quando la libertà sessuale viene vissuta con molta disinvoltura, lui si dice si fidanzasse con almeno 11 delle 12 playmate del mese. Dopo il divorzio dalla prima moglie nel 59, attende fino all'88 per risposarsi di nuovo, e questa volta con Kimberly Conrad, che direi proprio vince, fa bingo, e ovviamente una playmate dell'anno. Altri 2 figli e un altro divorzio nel 2010, poi ancora un matrimonio con Crystal Harris, anche lei playmate, che ha una certa differenza di età, 86 anni lui, 26 lei, ma quando c'è l'amore c'è tutto. Questo non è che un episodio della vita amorosa di Hefner, che nel 2003 in un talk show sfoggia 6 delle sue 7 contemporanee fidanzate. Avete sentito bene. My girls are sitting out there in the front row. Your girlfriends? Yes. Your 7 girlfriends are out there? Well, 6 of the 7. 6 of them. Let's see. Non sempre è tutto oro quello che luccica. Poco tempo fa è uscito un libro, Down the Rabbit Hole, giù nella tana del coniglio. Lo ha scritto Holly Madison, una delle conigliette che hanno condiviso la mansion con Hefner. L'immagine non è certo piacevole, si parla di droga, operazioni di chirurgia plastica per creare ragazze fisicamente tutte uguali, pasticche somministrate per favorire la manipolazione mentale. Un ritratto non molto idilliaco della vita da coniglietta. Però Hefner ha risposto dicendo che la ragazza l'ha fatto solo per riaccendere su di lei le luci dei riflettori che si erano già spenti, e in effetti anch'io la penso così. Certo, una parte di me si sente triste perché non piace a nessuno parlare di cose spiacevoli, e non ho detto queste cose come vendetta personale, ma semplicemente per riprendere possesso della mia vita. Oggi Hefner ha lasciato ai figli la conduzione del suo impero. Intanto internet ha rivoluzionato il mondo della pornografia e ha reso accessibile a tutti qualsiasi tipo di contenuto. Insomma, è come con la musica, è successo col sesso. Tutto vale a tutti, è tutto gratis e chi se ne frega. Il fascino di sfogliare le pagine patinate di Playboy è scomparso in una miriade di siti tutti uguali. Però vogliamo chiudere questa puntata ricordando quella che forse è la playmate più conosciuta e più desiderata da quando nel febbraio del 1990 ha riempito il paginone centrale di Playboy, dando inizio a una carriera che l'ha trasformata nella bagnina più desiderata del mondo. Stiamo parlando di Pamela Anderson, che alla festa per l'82esimo compleanno di Hefner ha consegnato la torta presentandosi completamente nuda per la gioia degli invitati, ovviamente dell'uomo che l'ha lanciata dalle pagine del giornale. E a quella festa purtroppo io non sono stato invitato. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno. Fare della propria passione il proprio lavoro e il proprio modo per diventare miliardari credo sia il sogno di tutti. Quindi in questo Hugh Hefner ha incarnato le ambizioni di milioni di uomini. Un colpo d'ala che ha lasciato un segno anche nel costume del bigotto paese americano. Noi vi aspettiamo con altre storie. Se volete segnalarci al falcoilgabbiano@radio24.it qualcosa di cui volete che si parli, fatelo, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.